Lombardia, insieme a Campania, punta le casse ai propri cittadini. Altre regioni stanno aspettando per visitare, ma anche molte persone stanno dando il sette per la soddisfazione di soldi di essere che stanno prenotate, quindi insomma questa vicenda della ragazza molto bene. Hola. Hola. Per fare saremo delle dare una risposta. C'è qualcuno qua? Hola. C'è qualcuno all'ascolto sul 10? Hola. Hola. Attenzione 10. Hola. Hola. Hola. Hola. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? No, proprio nessuno. E vai tu drogato. Posso squillare il telefono tutta la notte? Mi ci metto molto io a telefonarti alle 2 di notte, mi ha? E a te a quell'altro poco uomane, quel Luca Pugioni, che mi dice sempre cosa quello lì. Ehi, mamma mia che serata, non passano più. E io francamente sì, non... di andare cosa, non di far viaggiare, se mi portano sì, se mi portano già esco, infatti quando sto uscendo mi vengono a prendere, capito, in macchina, mica guido io. Io adesso devo andare il giorno 17 a Plataona, devo andare a fare quella visita, quella che mi volevano mandare a Oristano, il giorno 19, e poi devo andare a farmi il vaccino. Dopo devo prendere l'appuntamento con quel chirurgo vascolare a portargli il risultato di quella di Platamona, vediamo un po'. Eia, vediamo. Mi sembra di aver trovato già qualcosa, Caspa. Quel disgraziato di coso di... No, non apre perché le sigma le vende lui. Quello di Serrasecca, per intenderci, quel ladrone. Ma non me ne fregava nulla. Pur di non togliere la base dalla macchina, me l'avrei comprata. Ma su internet io credo che trovi tutto. Cioè, è inutile che vi... orientarsi con i venditori locali, che non c'hanno più niente. E quando ce l'hanno se la fanno pagare come loro. Che succede qua? Si complotta. Degli complottisti abbiamo fatto. Un attimino stava cercando una parte di un'antenna o tutta l'antenna. Ho detto, prendila online, ormai sanno di tutto, casualmente ti fai una lista a spesa, ti dividi le spese con qualcuno per pagare meno la spedizione, ma trovi tutto fuori. Qua, cosa trovi qua? Ma su internet ho provato, c'è la base, però manca il cavo e l'attacco di sotto, tanto vale togliere quella della macchina. Se buscavo anche un'antenna VHF, avrei messo un'antenna VHF al suo posto e avrei tolto la base dell'antenna. Cosa ti serve Natalina? Che cosa stai cercando? Dillo a me. Dillo a me. La base della PLC 800, che mi devo fare l'antennino da mettere sul frigorifero, con la base magnetica, capito? Perché c'ho questo apparato che è spento e non lo sto usando. Ah, normale sotto la PLC 800, ha detto. Sì signora, però già c'è, la base c'è, però manca il cavo, capito? E l'attacco di sotto, dove c'è attaccato il cavo, quello lì manca. Mica me lo posso inventare quello. Tanto vale togliere quella dalla macchina. È che io non la volevo togliere quella base lì. Comunque buonasera a tutti, pace, bene figlioli. Sì, c'è, costa 28 euro qua su questo qua, di dove diavolo è questo di Genova, quindi arrivo anche subito. Ma mi pare di seconda mano, o no, o è nuova. 28 euro, ci vuole il cavo, sì, c'è, così fammi vedere se c'è il portacoso, sì. Ma ti serve la martella a buco o magnetica questa cosa? Magnetica la devo fare, mi compro la base magnetica, no? E ci attacco la basetta lì, nella base magnetica. Solo che mi manca l'attacco del cavo, hai capito cos'è? Se io la compro non me ne posso nulla, faccio prima togliere quella della macchina che è completa. Perché c'è questo attacco qui balordo della CB. Ma Marco, tu cosa ne dici? Beh, io dico che se i produttori si fossero messi d'accordo per uno standard anche delle antenne, degli attacchi eccetera, sarebbe stata una cosa molto molto gradita, così come per i connettori. I connettori, vedi, attacco PL è già uno standard, l'attacco N è uno standard, se no lì ti perdi pezzi e magari non trovi il pezzo singolo, cioè il venditore interessa a venderti ovviamente l'antenna completa, tutto dalla cima del PL fino alla punta dello stilo, magari i componenti singoli non li trovi, chi lo sa, dipende. E da quello, però dalla GBC mi, lui vende le antenne Sigma, magari ce l'ha la base lì, solo che era chiuso, non ha bici, chissà chi la apri, lo mangiamo, mi hanno detto alle 10:30. Sì, alle 10:30 e chiude alle 11. Ma cos'è? Perché dopo deve passare al vignolo così? Non metto lingua, no, neanche le penso, certe cose, guarda. Ma... Natalia, tu sei troppo... troppo avventato nei giudizi, porta pazienza, fai come Marco, che è una spinata chirichetta. Quello è qualcuno, ma è peggio di quel Luca Puglioni. Aspirante chierichetto, no, no, non l'ho fatto da bambino, per carità, ci mancherebbe, la messa no, non la servo, non l'ho mai servita né niente. Allora, hai documentazione, Natà? Ho proprio quello che ti serviva, ingrandisci la foto, ci sono anche due altri suggerimenti in quel disegno bianco-nero, E poi in quello colorato ci sono tutte le regolazioni, ricezione, trasmissione, cos'era? C'è anche la leggenda. Allora, vabbè, la zona PLL non si tocca che è in blu. Ok. No, mi interessa la LC e i watt non li tocco, i canali sono. Eh sì, E qua come procede Gianfra? Io manco voglio fare di ex, ieri ho provato un pochino, però si parlavano uno sull'altro, Benevento, l'altro chi era? Comunque Sicilia, ma hanno toccato qua a questo Smither 9+15, contando che io ho il 9.30 di fondo scala, fai la proporzione quanto erano forti, no? E dopo delicati Icom, e io con questo qui che mi fa ridere, mamma mia, non rubo su Maria. Beh, io uso sempre il 3009, quando parlo mi sentono bene, dicono sempre radio chiara, e poi non satura con l'aiutino. Io manco l'aiutino, se metto l'aiutino può darsi che succeda il patatrack. Disturbatore di televisioni. Dai, qualcuno. Telefono alle 2 di notte, stanno così impari. Ma ti serve anche l'antenna? Oh, ce l'ho completo, ce l'ho, mi serve solo la base. Voglio farne un'antennina da mettere sul frigo con la base magnetica. Ecco cosa voglio fare. Bene, non te lo sai costruire, no? Cioè, la base magnetica credo che costi 10 euro. Se manca il cavo te lo metti, non è un problema, ma sono una saldatura stupida. Di qualunque tipo le avrei fatto un adattatore e l'avrei collegata con un trasecchio, con un dado, una farfallina e ciccia. Anche se sono originale, tanto mica devi andare con la macchina in giro. Sì, lo so. Non abbiamo voglia di costruire, ma già costruivo, ne facevo poco di soldi. Cosa sono tedeschi, francesi, greci, boh. No, ieri stavo prendendo un po' per i fondelli sotto dei napoletani, l'ho parlato un po' di napoletano, e mi ha detto, Gennaro, che sta cercando di questo? E niente, poi ci ho rinunciato, tanto con un consolo di due slatte. Dimmi in breccia. Sempre, sei una già già fatica. Poi da quando stanno ritrasmettendo con Morra, da me il napoletano per noi è una seconda lingua, vero Omar? Aspetta, da quando stanno trasmettendo? Ritrasmettendo con Morra, che stanno riniziando da capo. Ah, ti dirò, allora, chissà perché io le serie italiane, soprattutto di Gomorre, di mafie, serie poliziesche italiane, non le seguo mai. Non mi ispirano, mi piace sempre la roba oltremare, Inghilterra, Stati Uniti, quella roba lì. Però queste italiane non mi si valano, è tutto diverso. Sai cosa guardavo invece quando ero ragazzino? I tempi della piovra, Michele Placido, quei film là. Poi però dopo gli anni 90 ho cominciato a stufarmi. Guardavo giusto Distretto di Polizia le prime volte quando c'era l'attrice bionda di Sapore di Sale, come si chiama? Ormai è diventata una bella milfona. Non mi viene il nome, porca miseria. Non sopporto di non ricordare i nomi degli attori. Dai, aiutami. Boh, bello era anche la squadra, comunque. Bellissima. Anche Spaccanato, che c'era quel Camilucido. Quello era Scalzo, maledizio. No, ma questi non sono italiani. Ah, io già ho messo lo squelce, così non li sento. Allora, mo vi dico che... Chi dicevo io, l'attrice, niente, non metto nei nomi, porcaccia la vaccaccia. È bello, anche quello quelli della Uno Bianca non sono riuscito più a trovarlo. Bello anche quello che hanno dato da poco, quello delle carceri dove c'erano i ragazzi lì. Mare, com'era? Mare vivo, una cosa del genere. E anche Rocco Schiavone, abbastanza, vabbè, quell'attore è molto in gamba, Grillini, com'era? Sì, stavo per dirlo, qualcuno mi ha preceduto di alcuni istanti, Isabella Ferrari, lo guardavo quando c'era lei, quando hanno messo la Pandolfi non... già mi aveva stufato la serie. No, basso. Avete parlato in due, vai Gianfranco? No, non c'è nessuno, so. Che strano che non c'è QRM, sento S2, S1 e S2, questi che stanno parlando, che sentono abbastanza bene, ma non riesco a capire se sono italiani o se sono chissà dove. Marco, qua c'è scritto VR13 e VR12, sempre per la stessa cosa. VR13, VR12, mo guardo. Cosa sei tu? Chi è che mi ha mandato il messaggio? Franco? buonasera. Eia, perché non compare il tuo nome? Cioè, mi è comparso il numero su WhatsApp, ma non il tuo nome, eppure il tuo nome ce l'ho a memoria. Ce l'ho a memoria sui contatti. E bisogna dare una ritoccatina a questi programmi, ogni tanto sono un po' sciabidati. E cosa mi avete detto poco prima? Gianfranco? Ah, Natalia, aspetta che controllo. E tutti e due per la M. Natalia, tu stai perdendo un po' lo smalto, una volta eri un drago in queste cose, allora vuoi da 12 vuoi 13. No, aspetta, vuoi dire, vuoi 13 e vuoi 16, vuoi dire? No, c'era scritto 12 e 13. Il primo schema è sopra. E c'è scritto per regolare la potenza in AM. No, no, no, aspetta. Segui quello colorato. Se per tutto segui quello colorato. No, è un errore quello, è un errore che hanno fatto loro. Devi seguire quello colorato. VR14 modulazione M e la potenza in M VR13. Tu probabilmente il VR16 non ce l'hai nemmeno perché non hai la regolazione di watt nell'apparato, quindi non c'è il trimmer. 13 e 14 vedo. Ehi, non puoi sbagliare, Natalia, quello su tre apparati erano quelle regolazioni. C'è un po' di tutto lì, la sezione rossa, la sezione verde, sezione rossa trasmissione, sezione verde ricezione e la sezione blu da non toccare che è il PLL. Poi vedi quello schema, guarda i finali in alto a sinistra, quello schema prevede per gli apparecchi che ce l'hanno il prefinale e due finali, invece il tuo ne ha due di finali, cioè prefinale e il finale vero, capito? Cioè monofinale in poche parole, il prefinale non conta, è monofinale, è mono... Già ci siamo capiti, invece averne tre ne ha due. Sì, sì, il Pluto, forse il Pluto ne aveva due di finali veri e aveva più watt, aveva anche la regolazione dei watt, se non mi ricordo male. Vai Gianfranco. Sì, c'era anche Franco, se non sbaglio. Avanti Franco, buonasera. Sì, buonasera, stavo mettendo un po' di ordine, poi vi stavo ascoltando, quindi ho mandato un messaggio a per ricordargli Isabella Ferrari. Io sul mio qua, per regolare la potenza in AM, è il VR13, potenza M. Ciao Gianfranco e ciao Natalino. Avanti Natalino. Ciao Fra. Ehi, sì Franco, sì, sono tutti quegli apparecchi riusciti, insomma, con quella scheda PT3006 con tutte le varianti. Bene o male sono rimaste quelle delle regolazioni, forse i modelli proprio più vecchi, quelli degli anni 80 forse erano un po' diversi, cioè la scheda era molto, era un po' più diversa, adesso non me lo ricordo, non ce l'ho sotto mano comunque. Io qua quelli più o meno che ho regolato io, aumentare un po' il segnale in AM, VR1, per la portante VR8, poi c'è per il segnale in SSB VR2, poi vabbè, per la modulazione la LC e cose varie, questi sono quelli più o meno che tocchiamo. Comunque Natali, come vedi, se tu l'hai già visto dentro è una cosa esemplare, cioè elementare è quella cosa lì, quella prima che mi hai chiesto. Stavo cercando dove era quel jumper. Guarda, te ne accorgi perché ci sono delle, quelle, come si chiamano, quelle bobinette, tre bobinette affiancate, o come si chiamano, è un quarzo, sai, sopra c'è un quarzo, e a fianco delle bobinette. E le medie frequenze sono... E poi dipende come ce l'hai l'apparecchio, se ce l'hai di punta o di coso, no? Vabbè, non puoi scappare comunque. Comunque sì, c'è un errore in quello schema in bianco nero, Hanno scritto potenza in M invece quelle l'SSB e LC, capito? È un errore di battitura, dai. Io ho capito. Adesso cerco quell'affare là. Che apparecchio stai smanettando, Natali? Il 3009. è uguale a tutto, così al Galaxy, quella serie lì è. E penso di sì, è che questo canale non è, capito? Ma si può modificare volendo? Sì, un jumper bisogna spostare. Alla fine poi le apparecchie sono quasi tutte uguali, con qualche modifica. Ok, avanti Gianfra. Sì, forse sono grigio. Ok, va bene. Ma perché lo tocchi in Atari? Poi lo starate, fate casotto, mamma mia. Non vi vanno bene gli apparati che funzionano. No, non devo toccare nulla, no. Devo sbloccare i canali solo e basta. Ma ce li ha fatti su CPU, quindi senza programmazione? Sì, bisogna solo togliere un jumper e spostarlo, hai capito, per sbloccarli. Ah, quindi di quelli vecchi, praticamente, perché gli altri bastava regolarsi col pulsante, premendo qualcosa, dai, facendo delle sequenze, da menu. Cercano di jumper, tanto ce ne sono pochi. Infatti questo è quello normale, non ha frequenzimetro nulla, capito? È quello normale. Io ce l'ho il frequenzimetro Antalì, però non so se sia giusto oppure il frequenzimetro. Il vero frequenzimetro si collega proprio al cuore dell'apparecchio, no? Con la spina che c'è dietro. Però io come faccio a sapere se il frequenzimetro stesso è operato, essendo tutta roba commerciale e di basso livello anche? Sì, infatti. Infatti. Vabbè, già lo troverò quando apro l'apparato, perché intanto no, qua non si trova. Ma stai osservando una foto? Quella che mi hai mandato tu, sto guardando. Oh, si vede come. Si vede come. Aspetta, facciamo in fretta, dai, che non voglio. Allora, parte centrale dell'immagine. Parte centrale bassa. Guarda che ci sono quelle tre bobine, le 28, le 27 e le 26. A fianco c'è una specie di jumper, lì è a 4. Cioè, non puoi scappare, la posizione lì è abbastanza centrale, Natalì. Una volta che apri l'apparecchio è lì. Non ti puoi sbagliare, non è che ce ne siano molti di cappuccetti da spostare, no? Sì, infatti, già lo vedo quando lo apro. Anzi, mi stavo preoccupando, siccome questo è 40 canali omologati, non è che tutta la sezione che non sta funzionando, no? Che non è abilitata, che canali qua sono chiusi, non è che tutta quella zona che non sta funzionando del circuito poi smette di funzionare, si rimane anni e anni isolata, diciamo, da tutto, dall'alimentazione, da tutto. Ecco, a 3, L19, 20, 21 e 22, quella lì, e a fianco c'è il jump. No, allora, siccome, ripeto, non sono tutte identiche alle versioni delle PT3006, è a 3, ma non è quella, è più su. È più su, è a 3 ed è a fianco a L26, L27, L28. Ah no, L26, 27 e 28, a fianco lì. La posizione è quella. Per esempio, qua non compare il quarzo, vabbè, non mettono tutti i componenti, non lo fanno vedere. E l'ho trovato. Poi, se uno si vuole affrontare, si può mettere o uno switching dietro, no? Con quei tre ponticelli, naturalmente risaldare qualcosa, oppure un interruttorino magnetico per attivare e disattivare la modifica canali, o quelle modifiche col telecomandino, tutta quella roba che fanno sui 48. Gira uno di quelli lì col telecomando. Tutte cose poi sempre molto, perché vabbè, diciamo che gli organi di controllo non sono scemi, cioè loro se poi vanno a fare un controllo approfondito aprono, vedono l'intrallazzo, si incazzano ancora di più. Mica mi possono aprire l'apparecchio, non stai scherzando. Tu se col telecomando, con l'affare magnetico, si ne avvisano i domani. secondo me c'hanno tutto, in quel furgone, secondo me c'hanno anche i telecomandini già pronti, tanto quello è sempre, l'interruttore magnetico, quello lo provano vicino all'apparecchio, come vedono che comincia a brillare qualche lucina, a cambiare, a salire il QRM, capiscono che ha cambiato banda di canali, capito? Io gli faccio vedere quello piccolino, ma lo ha. Anche per esempio dire o non dire quanta potenza si sta utilizzando, no? O che apparecchio si sta utilizzando. Sicuramente loro con tutti quegli analizzatori si capiscono già a distanza quanta potenza si usano in realtà, analizzano l'emissione, si accorgono quanto è larga, quanto è stretta, tutto, la timbrica, tutto quanto. No, Gianfra? Ma io sto usando 2 watt e mezzo in questo momento, non so se rendo l'idea. Ecco, quello non è normale, dovrebbe darne 4 modulati, 4 fischiando, no? Tipo, circa 4 dai comunque. E lì forse è uscito secco di fabbrica. Vai Gianfranco, e poi Gianfranco farà girare per Franco. Marco, se mi ascolti, un controllo, grazie. Tino, sei tu, Santiago 8, Radio Buona, potrei darti anche un 4. Bene, grazie, hai, barra mobile. Natali, mi ascolti? Sì, signore, lo ascolto benissimo. Bene, bene, allora ho fatto un buon lavoro. Scusate, vi do una bassa. 8 anche con picchi positivi, in più. Ok, buono. Gianfranco, riprendi? Forse è spostato. Franco, vai tu. Sì, comunque neanche io vedo la tua foto, la tua immagine del profilo su WhatsApp, o non ne hai, Marco? No, alla fine ogni tanto la cambiavo, non sapevo cosa scegli, aspetta che ti aggiungo comunque all'elenco, un attimino. Buonasera a tutti. Ciao Gianni, perché il nome non vabbè, mi esce perché c'è la memoria, però non mi esce l'immagine. Avanti Gianni, buonasera. Buonasera a tutti voi, buonasera da parte mia, buonasera Natalino, Marco e Franco, dai, sto facendo qua roba al PC e rimango in ascolto, dai, proseguite. Roba al PC? Oh, scusate, avevo una bassa importante, mi stavo dicendo Natalì. Che ti ascoltavo. Bene, va bene, dai, niente, sono in barra mobile, quindi non ho... campagna, dai, non posso pretendere più di tanto. Sì, Santiago 8, Radio 5 qua, per il sicuro. Allora va bene, dai, vi lascio il vostro posto, dai, e sto continuando a piazzare, così vi faccio un po' di ordine. Grazie. Io basso, ma lo tiro fuori abbastanza bene, da un segnale di 3 e una radio di 4. Però, ripeto, io sono in zona negativa un po'. Gianfranco, è rientrato? Sto parlando da un'altra parte, un attimino, scusate. Forse avete parlato in 2. Sotto c'era Tino. Eia, ho detto, adesso provo a accendere il motore a vedere se migliora qualche cosa, vediamo un pochino se è migliorato. Buonasera Muscolo, dalle mie coordinate Santiago 9, Radio 5, dai. Ehi, allora va bene, dai. Ciao Gianni, sì Tino, ha migliorato di un quarto di Santiago. Sottoalimentato era allora. Ciao Marco, ciao Gianni, ciao a tutti, dai. Va bene, non posso pretendere, sono barra mobile, quindi non... va bene così. La radio 5 comunque, soprattutto adesso è 5. Sì, 5, qua lo stesso 5, però il Santiago è variato, Santiago 9. Ha aumentato Natalì. Eia, arrivavi 8, adesso sta arrivando 9 qua. E la radio è più forte pure, di poco fa. Caspita, cosa vuol dire accendere il motore, eh? Hai visto? Vuol dire ha sottoalimentato, sì. Va bene, vi ringrazio ancora, dai, continuate il show, ci sentiamo più tardi, se coincide. Ciao a tutti, buon divertimento. Aspetta, Tino, come l'hai collegato? Alla cinesigari o direttamente alla batteria? Ma ti dirò che era un impianto già fatto, ho guardato col tester, ce l'ha più e meno, sicuramente dalla batteria. Perché io quando collego alla cinesigari mi fa lo stesso problema, quando ho un motore spento mi si spegne addirittura il frequenzimetro, impazzisce. Invece è motore acceso o no? No, no, ma poi vedo anche lo smitter dell'apparato va dove deve andare, perché questo è un apparato modificato, quindi si dovrebbe comportare così, dai. E sta andando bene, a quanto pare. Bene, bene, dai. Marco, ci sei? Sì, Franco, sì. Allora, ti ho inserito, compare il veicolo, ma io non ci ho foto ancora. Cioè, l'avevo tolta, la metto, la tolgo, alla fine no. Sono rifiniture quelle. Dicevo, nonostante tu fossi già sui contatti del telefono, ti ho dovuto riconfermare, è come se fosse un contatto nuovo, non so perché, sui cellulari sono strani. Lo so, ogni tanto succede, qualche file che si perde, qualche cosa, e quindi non funziona più il tutto, non si chiude l'anello, manca qualche anello, insomma. No, io adesso, cioè, vedo l'immagine, ma vedo l'icona vuota e basta, solo per quello che te l'ho chiesto. Ma io ho sempre quella l'immagine della macchina. Vedo un fuoristrada, no? Più o meno. Sì, un fuoristrada, io sono amante di fuoristrada, quindi. A me piaceva la Watts, proprio una cosa spartana, tipo esercito russo, purché avesse però gli interni spartani. Io negli anni 80 ne ho visto una in vendita che aveva il cruscotto tipo autocarro, proprio roba militare, altro che interni in pelle, poi interni spartani in sky, in finta pelle, quello bello mi pare, quando c'è le scarpe fatte di fango. Se c'è la macchina fuori strada ma è troppo figa dentro, che siamo in un salotto, te la rovini, capito? Un carrettone. Via. La guardia era tutta in lamiera, le tasche laterali, davanti, tutto ferro. Via. Gianni, ti devo chiedere una cosa, poi? Avanti, ci siamo indicati Natalina in posteggio. Fate che io sto facendo. Aspetta che mi metto la mascherina che devo operare. Scusate un po'. Avanti Marco, dimmi. Allora, dopo secoli ho trovato un programma che mi funziona con quelle pennette del cacchio di acquisizione video prese da Amazon. OBS sto usando, OBS Studio, come si chiama. E sembra funzionare tutto, però io non capisco, per acquisire da VHS o da cassette di videocamere, che tipo di interallacciamento devo mettere. Se blend oppure quegli altri strani, se devo usare due campi, un campo. Vabbè, non lo conosco quel software. Tu prova a fare semplicemente un test registrando qualche secondo, cioè un minuto. Adesso non mi ricordo, è passato un po' di tempo, a dirti la verità Marco, non mi ricordo esattamente qual era adesso mi sfugge. Il settaggio ottimale, adesso mi sfugge, quindi non ho. Prova a acquisirne un minuto, cioè vedi vagliature, differenze, occhiometro, vedi un po', dai. Ma il cazzo proprio adesso proprio non ho. È passato un po' di tempo, non mi lamento, dai, mi è passato di mente. Sì, che poi è la stessa cosa che mi ha risposto uno sul forum. Siccome poi anche i software e gli hardware non sono tutti uguali, devi fare delle prove. Alla fine usi le principali, i principali metodi per interlacciare, e alla fine quello che si vede meglio poi sul schermo finale te lo tieni, lo adotterai come metodo definitivo, ecco. Aspetta, e io davo la colpa alla scheda di acquisizione, invece era quello schifoso programma che ti davano in omaggio, gratuito, che non aveva niente, non aveva neanche la modalità di interlacciare, e si vedeva tutto a scatti, una cosa, un obbrobrio, guarda. Ho capito. Guarda, se vuoi, io c'ho Pinnacle Studio 15, non è recentissimo, però è molto stabile, va benissimo. Se vuoi ti posso fare una copia, te lo passo. Beh, no, già, risolto per il momento. Questo OBS Studio è gratuito, c'è un sacco di funzioni che non userò nemmeno fra mille anni. A me serve una cosa grezza, mi tanto per salvare al limite cose così, di roba di famiglia, del mare, e boh, piccoli spezzoni, dai. Niente sigle, niente, come si dice, niente titoli, niente i passaggi di scena, va, come si chiamano. Niente, un filmato grezzo, e boh. dai, titolo e transizioni. Vabbè, proprio lo stacco baratto, il minimo sindacale. Avanti Fra. Io devo anche dire Gianfranco. Gianfranco. Sono impegnato e sono da un'altra parte, però ci sentiamo dopo. No, no, capite, diciamo, ce l'avevi anche detto. Sicuramente qualche altra frequenza. Oh, anch'io sono da moto e non uso queste cose qua, dai. Ho collegamenti vari, mamma mia. Anch'io ho dimenticato tutto già. Segna radio Fra. Adesso bella, bella chiara, limpida, bella, mi piace, come quelle che piacciono a me. Cosa, che microfoni stai usando? Uno io, sempre lo chiudo. La qualità non si smentisce, dai. Dai, zocca bene, proprio. Mi piace, proprio mi gusta. Bello, bello limpido, naturale. Cosa dici Marco? Mi ce l'ho da per me quello sciuro, eh. Vai, è impossibile questo, questo fa parte della mia vita. Sì. È così, sa. Anche tu alle 2 di notte, così impari. Alleluia. No, vai. È il primo e ultimo microfono di tavola che ho comprato. Consuma poco, una batteria ti fa buono non so quanti anni. Sì Gianni, adesso per rispondere a Gianni, io l'avevo sentito già negli anni, fine anni 80, lo Shure su un apparecchio che aveva un buon modulatore ed ero rimasta a bocca aperta, se sembrava una modulazione effetto presenza, come che la persona fosse a fianco a te, una cosa incredibile, ed è proprio quello Shure, quel modello. È un po' ingombrante, magari è un po' alto come microfono. Ma non più di tanto, mi, c'è di peggio, mi, ci sono dei microfoni che sono, me li aveva fatti vedere cosa, aspetta, Claudio me li aveva fatti vedere, c'è un microfono enorme, anche di larghezza, e cosa poteva essere, l'Expander, l'Edson, non mi ricordo il nome, ma era enorme, proprio in tutto, in altezza, in larghezza. Questo sarà stato forse più di 30 centimetri. Era quello che aveva la manopolina del volume rossa, mi pare, o il PTT, mi ricordo un particolare rosso, quello lì comunque. Il guadagno ce l'ha rosso, il PTT invece è grigio. L'unica cosa che c'era rossa qua era, mi sembra, qualche lamella all'interno, quello del PTT era stata così sistemata con delle lamelle provate da vari strumenti, da relè, roba elettronica. E presumo che la capsula sia originale, sì, perché guarda, meglio di così non credo che ci possa uscire. Anzi, con gli altri apparecchi sei anche più caldo di radio, questo c'ha pochi bassi di ricezione. No, no, la capsula mai toccata, l'unica cosa che si era attezzata è una lamella all'interno, quindi con un cacevittino sostituita e basta, non ho fatto altro. Ehi, aspetta che mi aggiorno qua un paio di cose e riprendi il rattalino. Tutti morti. Chi altro c'è rimasto qua? Rattalino sta operando, ho detto, alta chirurgia, è la mascherina già. Ah, sta operando a cuore aperto, capito. Mi raccomando, spegnilo l'apparecchio, Magari io mi facevo così, Frank. Cioè, lo spegnevo, staccavo l'alimentazione e poi quando era staccata lo accendevo in modo da far scaricare tutto, anche i condensatori. Non sia che mi cadesse un cacciavite a mezzo ai componenti e poi senti tac e si brucia tutto. Sì, sì, conviene così. Io quando lo tengo acceso, tengo l'alimentatore e si consuma tutta l'energia, se la consuma da solo. Prima già novità. Devo vedere se funziona adesso. Cambia questo bip che non mi piace, Natali. Così bene va. Così non ce n'è. O è questo oppure nulla. Hai capito? Già ti faccio sentire l'altro dopo. Aspetta un attimo che... Allora, vediamo qual è questo. No, qualche altro giorno ti ho sentito cambiare il bip. Ne avevi uno classico, guarda che era bello, tipo il nostro. Invece questo di adesso alla fine sembra mezzo castrato. Ah, Natali, quel bip regolabile, che volendo lo puoi fare identico a questo, oppure breve tipo Colt, col tono a 2000, tono 2000, quant'era? È un bel alto era comunque, impari 2005, 100 millisecondi. Invece per farlo come questo, vatelo a ricordare adesso, mannaggia. vero? Ma lo fate sentire il bip, questo non è un bip. Ah va, la taglia orecchia che ho. Avete parlato in due? Ho detto Franco, ti sei ripreso, sto a posto. Sì, mi sono ripigliato, mi sono. Va bene, beh, rimane in ascolto comunque, mi sto ascoltando, ciao. Ciao caro, saluto a tutti. Ciao Claudio, ben sentito. Non è che mi puoi ricordare qual era quel microfono enorme da tavolo, che era largo largo, un barrasone? Ah, quello che c'avevo io. Sì, mi avevi mandato tempo fa una foto, ma era proprio enorme come base, forse anche come altezza. Era surdimensionato. Quello è l'Expander 500 della Turner. Ecco. Fra, non mi ricordavo il nome, tipo Expander, Lason, l'Expander 500, fra. Magari sicuramente lo conosci perché sei già CB di, da tanto. Oh! Avanti Natalino, forse serve qualcosa Natalino. Non stai uscendo di radio? Come non esco di radio? Adesso sì. Ah, cappa. Ah, ti piace questo il bip? Meglio, meglio, questo va meglio. Questo qui è quello che ho operato adesso. Va meglio, va meglio. Questo ti piace invece? Mamma mia, un bip di oro. Quanto ve ne è? 2, 3, quanto ve ne è? Questo va a metà Alessio, ovvio. Non so quanto ne ha questo bip. Doppio è, doppia frequenza. Avanti Gianni, numero affetta. Aspetta, Marco. Dimmi tutto, Natà. La LC qual è? Natà dice, ti ho mandato la foto, aspetta che riapro per l'ennesima volta. Ma tu stai dicendo quello AM, la modulazione M. Per aumentare, perché l'MB più 4, adesso sono col microfono normale. Aspetta che attacco l'MB più 4, o sa che non ci sia bisogno di toccarlo. Allora, modulazione AM, VR14, VR14, lo ripeto, VR14, te lo devo ripetere? Un attimo, una bassa. Ma che c'è anche Gianni, il prefetto, ciao, buonasera. Eia, sta anche lui facendo roba, credo, computer, roba del genere. C'era anche Gianfranco, ma adesso è su altre bande, mi pare, o al telefono. Marco? Dimmi Natalia. Adesso c'è l'MB più 4, c'è bisogno di toccarla oppure no? Allora, vabbè, le prove le fai col mic gain dell'apparecchio al massimo, ovviamente, il mic gain dell'apparecchio al massimo. Però l'MB più 4 mi devi dire a quant'è? A 1, a 10? A 5, il mic gain è a manetta. Allora, ti spiego Natalì, se proprio lo devi toccare la LC, la modulazione M, lo metti al massimo, lo giri tutto in senso orario, perché non avrebbe senso aumentarlo di poco. Si mette tutto in senso orario e poi ti regoli il microfono da tavolo come preferisci. Come preferisci? Cioè il microfono a tavolo lo metti magari più basso, ma l'apparecchio poi col mic normale uscirà che è un bijou, più forte di questo, molto più forte. Infatti adesso cerco il VR14. Figa, se puoi usare i cacciaviti anti-induttivi oppure insomma facci con la lì è tutto grande comunque, non hai problemi di SMD e di altre porcherie simili. Vai Claudio. Ehi, no vabbè dai, sono andato a salutarvi, già ci sentiamo in un'altra occasione. Ok, saluto anche Gianni prefetto, a Marco, a te, insomma a tutti, dai. Già ci ascoltiamo un altro momento, ciao. Ok, ciao Cla, aspetta prendo il cacciavite anti-induttivo. Oh ragazzi, sono rientrato, vi devo lasciare proprio una bassa al telefono e niente dai, mi devo spostare, quindi dai faccio salutoni circolari a tutti, ho sentito a Claudio adesso, quindi dai salutoni a tutti i generali, salutoni generali a tutti, a tutta la ruota dai, e ci sentiamo appena possibile. Ok, buona serata e buon fine settimana, ciao. Ciao Gianni, buon tutto quello che devi fare, dai, ci sentiamo le prossime, ciao. Marco. E mo. guarda, sempre a 5 il microfono, però ho girato tutta la manetta quello là. Sembrerebbe più forte, sembrerebbe. Io non ho molto l'orecchio allenato, Natali, però una volta che mi chiedi una manetta, no, la regolazione esterna, prova a alzare il mic da tavolo. Guarda, adesso l'ho messo a 8. Sale, ma la TV ce l'hai spenta, sì, c'è molto silenzio ambiente. Sì che ce l'ho spenta, se no si sente la televisione, capito? Volevo sapere se va bene. Sembra di sì, al limite forse ti fa, te ne incupisce un po', leggermente, ma sai l'effetto, cosa volevo dire, porca miseria, non spinge più di tanto magari, credo di più, ma il microfono è originale, ho modificato. No, l'MB più 4 questo, se vuoi ti faccio sentire il microfono normale. No, ma dico, l'MB più 4 è normale oppure con quella modifica solita? No, niente modifica, normale. Ah, vabbè, per quello, perché anche il mio più di tanto non spinge, il più 5 che ho io. È meglio tenerlo così, perché alla fine, cioè, fai una radio spacca orecchie e... Poi, se a te piace, puoi modificarlo, ma se funziona, se è in garanzia, tienilo così. E se è quello nuovo, adesso è a 5, mi... Guarda, adesso lo metto a manetta, guarda. Adesso è a manetta e sono distante un 50 centimetri, da. Neia, prova a parlare a 20, a 20 centimetri, un palmo dal mic. Guarda, un palmo dal mic. Perché se stai troppo lontano la voce è di qualità un po' minore, se ti avvicini un po', non più di 30 comunque, già la qualità del parlato è migliore. Adesso lo rimetto a 5, va. Così sono vicino e mi dici com'è? Molto, molto rilassata Natalia. Non sembrerebbe nemmeno amplificata, lo sai. Non è che fare un paragone con un mic normale, ma... Vabbè, non è ho parlato in due. Ho detto, non è che vuole girato tutto all'altra parte, no? No, Natalie, senso orario. Senso orario. E così ho fatto. E conta che quello comunque... non vuol dire togliere la resistenza, perché qualcuno gli leva addirittura la... c'hai anche una resistenza in più, ma così ti diventa tipo l'an 48, cioè poi disturba, fa un casino l'apparecchio, cioè qualcuno gli toglie la resistenza limitatrice pure, solo che poi lì è un caos. No, adesso è quello normale, guarda un po'. Allora è lo stesso che sto usando io sto parlando, guarda, sto parlando di lato, per non sputazzarlo, vedi un po', 1, 2, 3, parla tu. 1, 2, 3, di lato anch'io. Non è molto forte però. Che strano. Aspetta che guardo se il macchine è a manetta, o se che... perché era rovescio l'apparecchio. Sì, se no non usciresti, se fosse messo al contrario a zero non usciresti. Sono rientrato, comunque per me va bene la radio di... è abbastanza forte di Natalino. Ehi, Afra, senti un po', io sto usando lo stesso suo apparecchio e lo stesso mic originale. Senti le differenze tra me e lui, probabilmente sarà la stessa modulazione. Vai Natali. Guarda un po', Fra, la stessa è. E poi mi dici se quando metto il mic è preamplificato. Forse leggermente più, qualche tono più alto Natalino, ma leggermente, però siamo lì. Poi vabbè, il segnale è un po' più forte, quindi c'è meno fruscio, meno rumore di fondo, tappa meglio lì, siamo la portante, tappa meglio il rumore. Però siamo lì, dai, sono due buone radio, dai, un 5 proprio buone. Aspetta che metto l'altro. E poi dovete tenere la stessa distanza, capito? segnale di stampa. E come sta modulando lui? Aspetta un attimo che metto l'altro, quello da di tavola. Vai, vai. Invece mi hai scritto una cosa su WhatsApp e non ho capito proprio. Che prova? No, se funzionava il testo, il programma, aspetta. Vediamo se funziona. No, appunto, i messaggi, eccetera. Ah, sì, sì, no, io ti ricevo, ricevo il tuo messaggio, sì, l'ho ricevuto. E tu come mi ricevi adesso con l'MB più 4, Fra? Ah, va o non va? La radio è sempre 5, è ottima, non è fortissima, però chiarissima, senza affrontoli. Ti accoppio bene. Ma io spedite baracchini, mi sono tratto io. Capito. Adesso me lo metto un po' più vicino, guarda, a 5. Va bene, parla tu Marco. Ehi, c'è un break sotto mi pare. Allora, io sto usando un mic normale, a tre dita da frontale adesso, tre dita dal mic. Tre dita, no, meno. Due dita dal mic, uno, due, tre, prova. Avanti il break. Buonasera a tutti, pensavo che non mi ascoltavate, dai, doppio room. Ciao già, ben entrato, vedo che sei in baramobile, ottimo. Ottimo, anche la radio. Ti mando avanti Natalino che sta facendo prove con le... Ehi, ciao Natalino, ciao a tutti gli altri amici, dai. Lo so, il 3009 sto usando. Buono Natalino, va bene, 3009 è sempre ottimo, dai. Fa molto bene di radio. Sotto casa, sì. No, no, io sono... Adesso in questo momento sto imbroccando il cavalcavia. Vedi, sei passato qua, qui sotto. No, no, sto venendo da via San Paolo. Ah, perché sei 9.30 qua. Va bene questa radio, dai. Avanti, Tattalino, tu come mi ascolti? Mi sembra rendi tutto. Adesso l'ho messo a 8, l'MB più 4. Come va, già? È un bel forte, si sente bene, Tattalino. Va bene, va bene. Ecco, dai, allora chiudo il tutto. Aspetta, devi fare la prova a canali con Franco. Con Franco, la prova a canali. Fa, di una banda dovresti salire e mi chiami, sempre su questo canale. Ok, ecco rientrati, funziona? Yes. Gianni? Tutto. Funziona tutto? Sì, siamo saliti di tre bande, dai. Due scatti ancora. Natalì. Sono qua. Lo sto chiudendo, va. Dico, come fai a cambiare banda? Se prima, come si dice, non era abilitato. Da davanti che comandi hai? Alta e bassa. Per avere le sei bande, come fai? C'è un interruttore, alta e bassa, solo che prima non agiva. Non ho capito. Questo per esempio... Tre bande più il pulsantino HI dai canali alti, HI. E il jumper, ha spostato il jumper. Sì, ho capito, però non capivo quello davanti nei comandi come poteva usufruire, hai capito? Beh, la manopola ABC, DF, no? Poi dipende dagli apparecchi, può essere siglata in altro modo. Sì, sì, era solo una curiosità, pensavo che non fosse risposto, cioè all'interno sì, ma a livello di pulsantiera davanti non avesse la possibilità di cambiare le bande, avesse fatto qualche altra modifica. No, no, questo è già predisposto. Poi per i canali sotto si mette, c'è il selettore, la levettina, tone, high, low, è una finta levettina di tono, è fatta così di fabbrica, tu lo metti sul low e c'hai tutte le tre bande sotto però. Ma io qua pulsante LOHI, diciamo sopra il pulsante dei 10 kHz, da lì mi cambia le bande, tre su e tre giù, dai. Sì, 240 canali. E Gianni, è arrivato a casa? Io mi sto dirigendo alla sala di sorso. Non lo so come mi state ascoltando, adesso sono ancora in via Giovanni Pascoli, ma penso che mi ascoltate bene, dai. Sì, 9 più 20 qua. 9.30 qua. Ha voglia già, voglia. Quale hai, la Turbo Mini? Cosa, Marco? Hai la Turbo Mini? No, c'ho la grande, c'ho la Turbo 2001. Vecchia Volpe. 9.40. Cava, già va bene, già va bene. Poca gente arriva. da casa, è da fisso, arriva con quel segnale. Già, se non va bene quella, non va bene nessuna antenna da macchina. Io l'ho provato l'altro giorno, anche se la mia sicuramente perde molto, che metà dell'antenna rimane coperta dalla macchina, che parte dalla ruota di scorta, dai, da metà della ruota di scorta. Un po', sì, per la posizione, un po', ma c'è di peggio, ho visto attaccata al cofano, tipo posteriore in certi mezzi, no? È un po' sacrificata, dai. Purtroppo quando già la macchina è alta, se la metti su, quando fai fuori strada, fai un casino, fai blu. A proposito, l'altro giorno ho visto un furgone, un fuoristrada, che furgone, cazzo sto a dire, scusa la parolaccia, un fuoristrada tutto con adesivi, con parafanghi morbidi dietro, le gomme, antenna di baracchino corta, con la spiralina, tipo vigili urbani, col dischetto e la spiralina, cazzo, c'era via poco di adesivi. E che macchina era? Già, ma io non ho badato alla marca, ero più colpito dall'antenna del baracchino e tutte le, sembra proprio da uso fuoristrada, con gli sponsor, roba del genere. Non ho guardato la marca, c'è la cosa più importante, non ho guardato la marca modello. Scusa, ma basta. Veglia. Natalino, l'hai chiuso? Tutto fatto? Sì, l'ho chiuso. Io ho messo lo staff, tutto qua. Perché così è più versatile, ti diverti di più, no? Anche, capito? Se no è castrato quell'apparecchio, è castrato. Sì, poi già metto quell'altro, piccolino, quello che non serve a niente. E altrettanto farò io, mi ci stavo già pensando, Natalino. E cosa vuoi fare intanto? Sono le 6:30, Natalino. Io mi ritiro in buon ordine, e anche se non ne ho voglia perché c'ho lo stomaco sotto sopra, qualcosina me la mangio e mi nevo il pensiero. Ok, Franco è al telefono, poi se rientra a salutarlo tu. Ci dovrebbe essere ancora Gianni, chi altri c'era? Gianfranco è occupato in altre bande, quindi vedi tu, dai. Ciao Natalino, ciao a tutti, ciao, buona serata. Ciao, ciao, alle prossime. Marco, buon tutto. C'è rimasto qualcuno qua? Attenzione, sul binario 10, ascoltate il doppio rum dalle curve di Sorso, cambio. Già ti ascolto. Aspetta che provo un altro microfono, se migliora già. Qua sono io, qua sono, sto scendendo verso Sassari adesso. Aspetta che provo l'altro. Quello di Tina provo. Cava, qua sogno. Guarda con quello di Tina, come va? Bene, bene Natalia, anche questo va bene. Cappa. Sempre forti sono, io ti ascolto forte e chiaro. Cava. E questo è lontano, adesso mi avvicino, guarda un po', sempre a 5, non di più. Sì, questo qui che cos'è? L'MV più C più 4? No, il Turner questo è. Ah, già si sente che bella forte la radio, va. Già va bene anche quello, va, anche lo prendo il C. Cappa. Vabbè, là, che adesso lo metto a posto. Aspetta un attimo, già rientro subito. Il fischio di Giulio. Ok. Ciao. Ciao Marco. Sì, attenzione, perché poc'anzi eravate quasi in 10.000 quando sono saliti a fare la prova su tre bande. A 27.975, occhio, molto vicino ai 10 metri. No, io non c'ero, questo è 40 canali, infatti la prova l'ha dovuta fare con l'altra persona, Natalino. Io sono sempre 40 qua. Sì, vabbè, finché non arrivi ai 28 non fai danno, dai. Ciao Giulio, io sono in cucina.